sembra una montagna di panna montata, zuffata d'un pigiama di colore indescrivibile. Il mio amore varia con la temperatura rilevata e peggiora con l'acqua. E secondo il piede che primo appoggia, pausa, rifletto su quale sia più consono appoggiare per non peggiorare l'andamento di sta settimana. Sessione d'esame, studio matto improponibile. Il rendimento mio è proporzionale alla mia voglia di amare lo scibile e contabile. Sopra pagina cartacea, repulsione che vinco. Solo se fingo che l'ennesima tazzina di caffè sia la prima della mia giornata, che ogni nozione accatastata, catalogata con cura, per paura, per il tempo messa la rinfusa. A distanza di giorni e nella condizione della mia stanza, che almeno un anno che voglio che torni il mio mondo principale. Ma in queste tazzine trovo solo un'altra indipendenza da cui devo liberare il mio organismo. Sue fazioni e proporzione massimale, sullo spettro dell'esame ancora un libro non fatto, ma correrò a rischio. Se luglio mi devo laureare, poi che visto se visto. No per un cazzo, con la triennale rischierei solo di tentennare, mentre sento il cucchiaino tintinnare contro i soldi che non potrei intascare di stipendio fisso. Ma i soldi non sono stati una priorità per mio papà, però danno la sicurezza. Lui è l'uomo normale dello straordinario, lo straordinario del normale, cui corre la differenza. Un sorso poi un altro, la stringa slacciata l'allaccio. Non riesco a stare se non sento serato il metatarso, schizzato nei miei modi abituali e preciso nel linguaggio, un sapentino saccente del cazzo. Per le maestre delle elementari che mi dicevano che parlo, parlo, parlo e con un altro e gli altri più bravi, ma ogni faccia per gelosia è messa a distanza di giorni e nella condizione della mia stanza, che almeno un anno che voglio che torni il mio mondo principale. Ma in queste tazzine trovo solo un'altra indipendenza da cui devo liberare il mio organismo. La sua fazione e proporzione massimale, sullo spettro dell'esame ancora un libro non fatto, ma correrò a rischio. Se luglio mi devo laureare, poi che visto se visto. Questo giorno è come il mio caffè.